Delirio. This is Mixlab Production. Senza speranza mixtape. Listen, bitch. Più che tanta roba, tanta droga sopra il posto. Nelle tasche le piantine, manco se ci avessi il bosco. Allucinato mentre giro per questa città. Detentato, prova qua, sei un drogato, ben ti sta. Cazzo ridi che domani muori, togliti i vestiti, alziamo stili cuori. Che domani muori, l'hai capita? Brilliamo sul tuo lieto fine, molto lieto di venire. Ma stanotte dai ti prego, non dormire. Ho il morale che mi porta su per le stelle. Tutto fatto nelle stalle, circondato da cavalle. Quelle bianca, quelle nera, quella sclera, l'altra sfera. Bel finale sotto effetto al lume di candela. Delirio, I winner, la mia vita nel grinder. Frate sta pasta, Miller nella testa scintille. Tutto fatto, straripato, soddisfatto sempre tanto. Questa volta manca poco, io non smetto, prendi fuoco. Avrei dovuto fare il gangsta rap nei locali, tutti con le mani su come gangsta rap. Io sono un gangsta rap, io faccio gangsta rap nei locali, tutti con le mani su. Avrei dovuto fare come gangsta rap nei locali, tutti con le mani su come gangsta rap. Io sono un gangsta rap, io faccio gangsta rap nei locali, tutti con le mani su. Ti sto prendendo per il culo. Cosa? Siamo gangster senza un futuro. Senza un futuro, mentre provo a farmi un nome. Tutto fatto, sono in giro, sfastico per la nazione. Attenzione, quando arrivo io, mezzo fuso nella Clio. Chiudi l'altra, bella zio, grazie mille, sto da Dio. Senza di lei io non saprei cosa fare, dove andare, chi chiamare, soprattutto chi. Bravo! Siamo al top del top, tu resta playoff. Sul mio pezzo metti play, sul tuo clicco stop. Sempre fissa per il rap e la guida. Niente calcio, sai che tipo, solo Benfica. Dilla alla tua tipa e pure alla tua amica. Mi trovi in studio, sei registro. Voglio i soldi del ministro, niente perle. Ora che siamo in acquisto, non vali un cazzo, ti smentisco. Avrei dovuto fare il gangsta rap nei locali, tutti con le mani su come gangsta rap. Io sono un gangsta rap, io faccio gangsta rap nei locali, tutti con le mani su. Avrei dovuto fare come gangsta rap nei locali, tutti con le mani su come gangsta rap. Io sono un gangsta rap, io faccio gangsta rap nei locali, tutti con le mani su.